Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, si stanno avvicinando le elezioni regionali e avevo già valutato di disertare le urne. All'età di 26 anni mi sono già stufato degli assurdi dibattiti di politici che in concreto fanno ben poco e sembrano più che altro preoccupati a mettere in cattiva luce lo schieramento opposto o a ottenere diritti per i loro partiti fingendo che siano per i loro elettori. Tuttavia, alcuni giorni fa ho sentito proprio a Radio 24 l'intervista di un settantenne iracheno che aveva appena dato il suo voto alle elezioni svoltesi quel giorno in Iraq. Diceva di aver avuto paura, ma di essere andato lo stesso a votare, perché per l'Iraq era importante avere il giusto governo. Mi ha commosso quel vecchietto, contento del suo atto e speranzoso di vedere finalmente un nuovo Iraq. Nel suo paese andare a votare può voler dire morire vittima di un attentato. E allora mi sono reso conto di avere un diritto al quale non avrei dovuto rinunciare. Per quanto tuttora non sappia proprio chi votare, cercherò di trovare il meno peggio facendo una valutazione sulle proposte dei vari candidati e metterò la mia croce. Anche se non credo nella politica italiana, lo farò per quelle persone che non possono votare perché non è loro concesso o per le quali farlo potrebbe significare perdere la vita. In Italia non serve tanto eroismo, basta il tempo necessario per recarsi al seggio più vicino. Beato il paese che non ha bisogno di eroi. Alberto. Gentile Alberto, c'è poco da aggiungere alla sua testimonianza. La democrazia è una realtà fondamentale. Ci si accorge del suo valore e del valore della libertà, soprattutto quando viene a mancare. Considero fondamentale partecipare alle elezioni, scegliere e votare. Non votare può essere anche una forma di protesta, ovviamente lecita, possibile, in qualche caso anche giustificabile. Anche non votare è un'espressione di libertà, ma rendendosi conto che non votare vuol dire delegare a chi vota la scelta dei rappresentanti di tutti. Scrivo a proposito del dibattito su quella scuola del Vicentino, dove a 8 bambini, i cui genitori da tempo non pagavano la retta per la mensa scolastica, sono stati serviti dei panini anziché dei pasti completi. Io sono, come credo molti altri ascoltatori, indignato. Non prendo le parti né dei genitori, né degli esperti, né del sindaco. Fatta questa premessa, sono a proporvi di potermi accollare per l'anno in corso la retta per la mensa di uno dei bambini esclusi. Sono da sempre a favore dei gesti tangibili. Le belle parole le lascio a chi le sa dire. Spero vogliate prendere in considerazione questa mia proposta e che magari promossa da voi possa trovare altre persone disponibili. Facciamo tanto per adottare i bambini a distanza. Io ne scelgo uno qui. I bambini sono di tutti. Bobo. Se non si insegnano le regole a scuola anche attraverso metodi forti, come si fa a rendere il servizio educativo e il senso civico a scuola? Sicuramente i genitori di quel bambino, mandandolo a mangiare in mensa senza averla pagata, non gli stanno insegnando il rispetto delle regole. La scuola, come è strutturata adesso, non è un granché, ma è il compito di creare una futura generazione che rispetti le regole, acculturata e con senso civico. Non ha il compito di sostenere i bambini a livello economico, né di mantenere i bambini. Per questo ci sono delle strutture alle quali rivolgersi. Stiamo andando verso un mondo troppo benevolo e lascivo. Questo anche grazie a delle persone che mirano al perbenismo come unico obiettivo. Ma questi bambini che si trovano tutto pronto e tutto roseo, cosa faranno una volta arrivati nel mondo del lavoro? Come faranno ad affrontare le difficoltà a cui andranno incontro? Io sono come questi bambini, ho sempre avuto una vita facile ed agiata, ma adesso mi trovo in mezzo a molte difficoltà e non ho i mezzi per poter farmi rispettare. Molto probabilmente le comodità che ho avuto mi hanno fatto vedere un mondo che non esiste. La scuola deve insegnare non solo la cultura, che è importante, ma anche e soprattutto un modo di vivere e di interfacciarsi con gli altri. Davide. È con profonda tristezza che scrivo questa lettera sulla vicenda di Montecchio, quella dei bambini discriminati in base al pasto e dei quali mi sento addosso tutta l'umiliazione. Le motivazioni del sindaco, nella loro astratta violenza, sono l'espressione di tutta una mentalità che non coglie mai i problemi nella loro interezza, ma li segmenta e così fa di ogni individuo. Il bambino a scuola è solo un utente di un servizio che ovviamente va pagato per intero. Non ha nessuna importanza se ha fame o è mal vestito perché a casa il padre ha perso il lavoro e sono tutti disperati. Se non paga la retta è solo perché ha dei genitori inqualificabili che lo trascurano. Perciò, che la colpa dei genitori ricada giustamente sui figli. Naturalmente, poi, se il bambino a scuola non impara nulla, è colpa della sua svogliatezza. Mi ha poi colpito l'ipocrisia del sindaco quando ha dichiarato di non sapere se si trattasse di bambini italiani o extracomunitari, perché la cosa da evitare era ovviamente l'accusa di razzismo. Ma ci vuol poco a ipotizzare che in un paese come Montecchio, che si è retto finora col lavoro degli immigrati, la disoccupazione crei problemi soprattutto a loro. Non possiamo neanche più dire che la nostra società, che si picca di essere tanto civile, sia retta dalla legge della giungla, perché gli animali che vivono in branco hanno tutta una serie di norme ferree istintive a tutela della vita dei loro piccoli. Anna. Caro direttore, scrivo a proposito del sindaco che ha fatto differenziare i pasti per alcuni bambini della mensa scolastica. Sono sconvolta. Questo sindaco forse non ha fatto una gran cosa, ma nella scuola pubblica dove mando una delle mie figlie, quando una mattina l'ho portata in ritardo perché aveva una visita medica, la bidella mi ha fatto presente che se dalla volta successiva non avessi avvisato prima delle 9, mia figlia non avrebbe avuto il pasto perché non era stato prenotato e sono disponibili pasti solo per chi prenota entro le 9 del mattino. Faccio presente che il pasto era già pagato, perché qui si comprano in anticipo i buoni pasto che vanno portati a scuola ogni giorno. La maestra, allora, mi ha detto di non preoccuparmi, che se fosse accaduto di nuovo, avrebbe provveduto lei stessa a dare metà del suo pasto alla bambina. Qui, invece, non si parla di genitori che non pagano, ma di genitori che addirittura non hanno iscritto i propri figli alla mensa, altro che prenotare i pasti. E fino a marzo i bambini hanno mangiato normalmente come gli altri. Credo, tra l'altro, che se uno di questi bambini avesse preso un'intossicazione alimentare, sarebbe stato un bel pasticcio per tutti. E qui, invece di chiederci come sia possibile che dei genitori si disinteressino così dei loro figli, mettiamo in croce il sindaco? Ripeto, non ha fatto una gran cosa. Avrebbe dovuto interessare i servizi sociali e far verificare perché questi bambini sono così trascurati. Mi immagino però poi quale sarebbe stata la reazione. I genitori non pagano la mensa, tolti i figli. Mi immagino che aver avuto il panino invece della pasta asciutta fosse l'ultimo problema di questi bambini. Pensiamo che siano trascurati solo per quanto riguarda la mensa? Ma in che mondo viviamo? L'educazione dei figli non è importante. L'importante sembra piuttosto la legalità, salvaguardare i diritti del bambino. E il diritto di avere un genitore che si occupa di lui non esiste forse? Sarebbe forse meglio aiutare le famiglie in difficoltà non tanto dal punto di vista economico quanto educativo. Perché un genitore arriva a non occuparsi dei pasti del figlio? Mi dispiace, ma qui mi pare che siamo tutti presi a guardare il dito e la luna non la vede più nessuno. Cristina. Caro direttore, che ne sarà della moneta unica europea nel prossimo futuro? Il difficile accordo per aiutare la Grecia ha dimostrato che dietro all'euro non c'è una vera volontà politica comune. Sarebbe stata utile e necessaria un'azione comune, e invece si è dato il via ad interventi bilaterali e quindi dei singoli stati. A questo punto, la preoccupazione maggiore non è data dal deprezzamento dell'euro, un deprezzamento che in fondo potrebbe essere utile per sostenere l'export verso i paesi dell'area del dollaro, ma dal rischio che si presentino crisi ben più gravi di quella di Atene. Nonostante questo, sono convinta che l'euro sia stato un passo coraggioso e sicuramente positivo. Ma lo stesso coraggio dimostrato dai fondatori quando 20 anni fa iniziarono il cammino della moneta unica dovrebbe essere fatto proprio dagli attuali governanti d'Europa. Contrariamente a Don Abbondio, ritengo che il coraggio uno se lo possa dare. Carlotta. Caro direttore, non le sembra che l'Italia nel suo complesso sia una società ormai ferma? Che non ha fiducia nel futuro? Che non riesce a trovare in se stessa i motivi per la crescita? Le colpe possono essere individuate in un sistema sociale che garantisce, magari giustamente, gli anziani e i lavoratori, ma che riesce a destinare molte poche risorse ai giovani, alle famiglie, agli incentivi all'occupazione giovanile. Non sarebbe possibile copiare qualcosa dall'efficienza del mercato del lavoro inglese, dalle politiche francesi di sostegno alla famiglia, dalle garanzie mirate ed estese dei paesi scandinavi? Proprio grazie alla propria politica sociale, la Francia non solo ha un tasso di crescita demografica notevolmente più alto di quello italiano, ma insieme riesce anche ad avere una più alta occupazione femminile. Sono proprio questi elementi che hanno fatto sì che anche prima della crisi la crescita italiana fosse stata ben più limitata di quella degli altri paesi e che ora creano le premesse per ulteriori future difficoltà. anche perché non si vedono svolte all'orizzonte. Ogni pur piccola ipotesi di riforma del sistema pensionistico incontra la dura opposizione dei sindacati e, per eventuali politiche attive di sostegno alla famiglia, continuano a dirci che non ci sono le risorse. Filippo. Gentili signori, vivo nel Veneto. Ho insegnato fino a 60 anni la lingua tedesca e ho organizzato gemellaggi con la Baviera tra scuole e tra comuni. Scopro che i miei nipoti, alunni di prima media in scuole differenti, hanno come seconda lingua straniera lo spagnolo. Mi dicono che il tedesco stia sparendo, su richiesta delle famiglie. Mi è tornata alla memoria la frase con cui il mio relatore concluse il mio esame di laurea. E adesso, cara la mia biondina, vada a combattere con le mamme italiane. Per decenni abbiamo studiato francese solo perché c'erano insegnanti di tale lingua e non si potevano lasciare a casa. La nostra piccola e media industria, che non si può permettere un traduttore interprete fisso, considera sufficiente un addetto che abbia delle semplici basi di tedesco, visto che i paesi di lingua tedesca sono i destinatari di buona parte dell'export triveneto. Lo spagnolo è più facile, all'orecchio delle mamme sembra veneto, quindi il tato farà meno fatica. Poi magari non gli servirà a niente, ma avremo dei bei voti e non risicati dal 5 al 6. Vi prego, fate riflettere su questa situazione. L'attenzione alle necessità della società è anche questa. Abituare i cuccioli ad affrontare le difficoltà è un modo per farli crescere e non farne degli annoiati stabili con quel che segue. Fare la cosa più facile non porta a niente di buono. Mariangela. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.